Fonzie non era proprio capace di chiedere scusa. Credo che noi abbiamo capito, forse anche grazie al video precedente, quanto sia importante farlo, ma il punto non è soltanto chiedere scusa, il punto è anche come lo facciamo, perché ci sono almeno quattro modi inefficaci di chiedere scusa, quattro modi per cui le nostre scuse, anche se in qualche modo sincere, non arrivano direttamente al bersaglio. Primo, le scuse vuote. Mi dispiace, ti ho detto che mi dispiace. Una frase del genere ha la forma del chiedere scusa, ma sicuramente ha ben poca sostanza e ce ne accorgiamo soprattutto dal modo con cui viene formulata, non tanto dalle parole in sé, quanto dal tono di voce che mostrano come in realtà non siano scuse del tutto sinceri. Quando ci può succedere di scusarci in questo modo? Magari quando ci sentiamo obbligati a farlo, quando le scuse in un certo senso ci sono imposte, o ancora quando ci sembra che scusarci sia l'unico modo di uscire da una situazione spiacevole. Oppure quando noi stessi siamo frustrati per quello che è successo e non siamo a nostro agio nella situazione in cui siamo. In quei casi sì, chiediamo scusa, ma sarà difficile che ci mettiamo un vero sentimento e piuttosto sarà facile che l'altra persona si accorga che le nostre scuse mancano di qualcosa. 2. Le scuse eccessive. Oh, sapessi quanto sono dispiaciuto, sapessi quanto mi spiace, sto veramente male. Che cosa posso fare per rimediare? Perché sto proprio male in questa situazione. Apparentemente sono scuse piene e molto ricche di dispiacere e teoricamente questa è una cosa molto buona, ma in realtà c'è un rumore di fondo che le fa diventare poco efficaci. Le scuse così formulate esprimono effettivamente il nostro dispiacere, ma sono troppo centrate su noi stessi e sul nostro senso di colpa. Se ti è capitato di scusarti così, forse le scuse non sono state recepite proprio per questo motivo, perché al centro c'eri tu, i tuoi sentimenti, il tuo stato d'animo, oppure quello che l'altro avrebbe dovuto fare perché tu potessi sentirti meglio. Invece di preoccuparti dello stato interiore dell'altro, questo genere di scuse possono dare l'impressione che tu hai bisogno che l'altro accetti le tue scuse perché tu possa sentirti meglio. Quando ad esempio ti scusi in modo eccessivo rispetto alla situazione, che ne so, ti sei dimenticato di fare una telefonata e strisci per terra chiedendo perdono, o magari quando chiedi scusa ripetutamente, insistentemente per mille volte per una cosa tutto sommato da poco. 3. La negazione. Mi spiace per come tu ti senti, ma non è stata colpa mia. Se chiedere scusa al fine di riparare una relazione, non ammettere le proprie responsabilità, difficilmente aiuterà a ricostruire un clima di fiducia. Nega la propria responsabilità chi ha un ego piuttosto marcato, chi si sente forte, chi pensa di non sbagliare mai o di dire sempre la cosa giusta nel momento giusto, chi pensa che da un momento all'altro il terreno della propria autostima possa crollare sotto i suoi piedi. Ok, a volte davvero non hai nessuna colpa, ma nella relazione il problema non è sempre di chi ha colpa, non è sempre questione di percentuali. 20, 80, 0, 100, 50, 50. Il problema piuttosto è quello di cercare di riuscire a focalizzarci su quello che l'altro sta vivendo, sulla sua esperienza anteriore, sulle sue emozioni. E per fare questo dobbiamo anche cercare di essere ben coscienti di quello che noi stiamo vivendo, sentendo, di quelle che sono anche le nostre emozioni. A volte siamo preoccupati di chi ha oggettivamente la colpa, di chi oggettivamente ha sbagliato, ma a volte mi chiedo, nelle relazioni interpersonali ha proprio sempre così importanza riuscire a capire soltanto quello che è oggettivo, o piuttosto non è importante proprio cercare di focalizzarci reciprocamente su quello che stiamo vivendo, su quello che stiamo sentendo? È importante piuttosto riconoscere i sentimenti dell'altro e quindi renderci conto se magari anche senza volerlo lo abbiamo ferito. 4. Le scuse incomplete. Ok, hai ragione, mi dispiace che sia successo. A volte abbiamo dentro di noi il dispiacere per quello che è successo e siamo anche dispiaciuti per come l'altra persona si sia sentita e vorremmo anche esprimere in qualche modo le nostre scuse. Eppure Eppure a volte manca qualcosa. Sì, perché per chiedere scusa non basta chiedere scusa. Chiedere scusa è come preparare una torta. Ci vogliono tanti ingredienti. Non basta l'intenzione, non basta avere il desiderio di fare un buon dolce per preparare una buona torta. Ci vogliono gli ingredienti giusti, inseriti nel giusto contesto, con le giuste quantità e soprattutto ci vogliono tutti quegli ingredienti necessari. Ad esempio, potresti riconoscere di aver sbagliato, ma non riuscire a chiedere esplicitamente perdono. Oppure potresti esprimere di essere dispiaciuto per come l'altro si sente, ma non riuscire a dire che sei consapevole che hai una responsabilità in tutto questo. Ok, credo che per questa settimana abbiamo già messo abbastanza carne al fuoco. Lunedì prossimo finalmente vedremo i 5 ingredienti fondamentali per chiedere scusa nel modo corretto ed efficace. Nel frattempo lascia un mi piace e condividi il video con i tuoi amici se ti è piaciuto e iscriviti al canale. E se proprio non vuoi perderti neanche uno dei nuovi video, attiva anche la campanella, così ogni lunedì mattina quando uscirà un nuovo video ti comparirà sullo smartphone una notifica.